9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari radioascoltatori, buon lunedì 28 dicembre, buona ripresa dagli eccessi che qualcuno di voi avrà sicuramente commesso per Natale e Santo Stefano. Cominciamo questa settimana e la cominciamo con un appuntamento che diventerà fisso d'ora in poi, una volta al mese almeno, alle 9 in punto, qui per tutto il 2010. Sentiremo un direttore alla volta, un direttore di grande giornale, di telegiornale, un punto di riferimento di informazione per fare insieme a lui il punto di quello che è successo, per chiedere di capire a lui come lui interpreta la difficile arte di fare informazione in un paese, insomma, dove sono tanti tifosi che hanno idee molto diverse su come bisogna fare informazione, su cosa l'informazione deve privilegiare, cosa deve saper offrire in maniera equilibrata e paritaria. Oggi iniziamo con il direttore del TG2, Mario Orfeo, a tra poco Rallina al Giornale Radio. 9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, torno ad augurarvi un buon lunedì 28 di dicembre. Qualcuno è tornato al lavoro, ma i più direi da quanto era scarsa l'affluenza oggi metropolitana a Milano non direi, e comunque buona giornata, buon inizio di settimana con un appuntamento che diventerà d'ora in poi standard, abbastanza fisso, ricorrente, almeno una volta al mese faremo il punto insieme a un direttore di quotidiano, di telegiornale, su quello che avviene nel nostro paese e dal suo punto di vista ci faremo spiegare da lui non solo come la pensa ma anche come organizza il suo lavoro, e soprattutto ne approfitteremo per rivolgere a voi ascoltatori una domanda che, dire la verità, dopo 6 mesi e più di conduzione ancora è irrisolta per me, che ho la responsabilità ovviamente di non deludere il pubblico di Radio 24. E cioè vi chiedo in queste occasioni, a cominciare da oggi, quindi chi di voi è libero e ha qualcosa da dire, 800 24 00 24, il numero, di dirci: ma voi in realtà che cosa chiedete all'informazione? Lo dico in particolare per la parte più sensibile dell'informazione, cioè quella politica, perché ho l'impressione che ci sia un equivoco molto radicato nell'opinione pubblica. I giornalisti, è chiaro, sono molto spesso da criticare, per carità di Dio, sono l'ultimo a difenderli. Hanno tanti difetti, hanno anche qualche pregio però. Poi l'unico problema è che devono però tentare di distillare tutti i giorni, nelle trasmissioni che conducono, nei telegiornali, vedremo oggi soprattutto in questo, che dirigono e che realizzano, nei giornali che confezionano e quando scrivono o decidono che cosa fare scrivere nei giornali per proporre all'acquisto, e devono realizzare questa diabolica cosa che è un'immagine del mondo, sintetica, ma un'immagine del mondo, e il mondo si vede da dei punti di vista. Questo è inevitabile che sia così, non esiste l'oggettività. E credo che l'equivoco molto diffuso nel pubblico sia quello di, tra virgolette, pretendere che ci siano dei criteri in base ai quali, per numero di minuti e di secondi, la famosa par condicio, per equidistanza pretesa da tutti i punti di vista, come fosse possibile avere un punto di vista equidistante da tutti i punti di vista e così via, il pubblico alla fine dice e decide e protesta molto spesso che questo o quel giornalista, questo o quel direttore, questo o quell'organo di informazione sono tutti una manica di puntini, puntini, puntini. E questo io lo vedo anche da molte reazioni che spesso vengono, quando io in diretta, vengono con gli sms che mandate tramite 349 238 6666 qui quando conduciamo le trasmissioni, insomma, con delle reazioni anche forti. Adesso non voglio dire che c'è tutto un vasto pubblico che oramai riserva le sue saette tutti i pomeriggi alla trasmissione di Giuseppe Cruciani, però è così. Allora ci siamo posti il problema qui a Radio 24 di farci spiegare e di chiedere anche a direttori loro come la vedono, perché un'informazione in un'Italia tribale spappolata e divisa in due tribù permanentemente armate, che invece di parlare di economia, astronomia, informazione scientifica, ogni volta il problema diventa: ma volete voi bene o volete odiare invece Tizio? Non ne farò il nome, ma tanto sapete di chi sto parlando. Ecco, questo, ho l'impressione che sia sempre più difficile fare informazione. Fine del pistolotto. Andiamo al protagonista dell'informazione di oggi, che ringrazio per essere collegato con noi. Siamo collegati con il direttore del TG2, Mario Orfeo. Buongiorno Orfeo. Buongiorno, buongiorno a voi. Ecco, questa presentazione un po' delicata, perché significa iniziare proprio da un direttore, fresco direttore, nel senso pochi mesi, di un importantissimo organo di informazione pubblica, perché il servizio pubblico accentra in sé poi tante di queste critiche, e iniziamo proprio da questo, Orfeo, se permette. Lei quando è andato al TG2, era direttore del Mattino, lei ha una storia di giornalista, giornalista nato a Napoli, impegnato al Mezzogiorno, che poi ha ben fatto quando era giovane alla testa di un giornale di grande tradizione come Il Mattino, e si trova per un'età che rispetto a quella standard italiana è ancora molto giovanile, per così dire. Qui in Italia diventare direttori sotto i 50 anni è un record, lei è parecchio sotto i 50 anni. Allora, lei è diventato direttore del TG2. Allora, la questione è: quando si diventa direttore di una grande testata del servizio pubblico, con tutta la delicatezza delle critiche che possono arrivare, qual è il criterio in base al quale lei decide? Iniziamo l'informazione più difficile, quella politica. Come si bilancia la faccenda del giorno per giorno? Perché se uno dovesse dare un criterio giornalistico e seguire il criterio giornalistico, magari c'è un giorno in cui c'è la notizia solo da una parte, non è che la deve equilibrare, perché altrimenti l'ascoltatore dice: ah, al TG2 sono di qua invece che di là. Le notizie non è che tutti i giorni hanno lo stesso peso da tutte e due le parti politiche, o sbaglio? Lei come ha deciso di orientarsi? Ma non c'è dubbio, quello che dice lei è corretto. Io mi sono orientato nel senso che faccio quello che sempre fatto, l'unica cosa che so fare, cioè fare il giornalista. Poi è cambiato lo strumento, cioè dal quotidiano alla carta stampata sono passato al telegiornale, quindi alla televisione, sono passato da un editori privati a un servizio pubblico, ma credo che la stella polare resti e debba essere sempre quella di cercare di fare il giornalista, naturalmente con i limiti, i difetti che ciascuno di noi può avere. E mi sono orientato nel dare le notizie, riconoscendo alle notizie il peso giusto, nel senso che non c'è bisogno di equilibrare a tutti i costi una notizia per rispettare quelli che poi sono i canoni che in Rai vigono dei dati dell'Osservatorio di Pavia, cioè quelli che ti dico per cui hai dato tanto spazio alla maggioranza, tanto spazio all'opposizione, tanto spazio a questo o quest'altro. Però di quei dati alla fine mi pare di capire che in qualche modo, se si dirige una testata alla Rai, bisogna poi anche tenere conto, o no? Sì, bisogna tenere conto, ma non deve essere questo, diciamo, l'unico metro di giudizio e di valutazione, nel senso che poi io credo che, dato che i fatti della politica italiana sono tanti, e alla fine poi tutto si compensi, e quindi se un giorno si dedica più spazio al centrodestra, alla maggioranza di governo, perché oggettivamente la maggioranza di governo, in quanto maggioranza, fa più cose, o perché in questo momento, essendo al governo, è quella che le cui divisioni o le cui problematiche interne sono più evidenziate, hanno un risalto maggiore, questo, come dire, non ci debba frenare in alcun modo, così come ieri abbiamo dato ampio spazio ad esempio a quello che è la spaccatura del centrosinistra, tanto per fare un esempio recente di attualità, con l'intervista del capogruppo Franceschini, che ovviamente ha una posizione che sembra diversa da quella dei vertici del suo partito, vertici a cui lui stesso appartiene, perché il capogruppo alla Camera dei Deputati ovviamente è espressione diretta della politica del partito, mentre lui mi pare che già con un intervento a un convegno della sua corrente a Cortona, poi ieri con un'intervista a Repubblica, come dire, abbia scelto una linea diversa. Quindi, diciamo, da questo punto di vista non cerchiamo poi compensazioni nel day by day. Le compensazioni poi arrivano perché, diciamo, la politica italiana è talmente ricca di parole, purtroppo, e poco di fatti, ahimè, che poi, come dire, le parole si compensano, e anche, diciamo, i dati dei vari osservatori che ovviamente dobbiamo di cui dobbiamo tener conto, perché poi ne rispondiamo spesso o davanti al Consiglio di Amministrazione o davanti alla Commissione di Vigilanza Parlamentare, alla fine spesso si compensano, se si riesce, come dire, a trattare questi avvenimenti con un certo equilibrio. Ecco, lei ha citato la Commissione Parlamentare. Per un direttore di informazione, avere... conto è lavorare per un editore, lei è cresciuto avendo importanti incarichi professionali, prima Repubblica, poi nel gruppo Caltagirone. Uno ha un editore, sa come si deve regolare con l'editore, cioè c'è un rapporto preciso, trasparente. Il giornalista, secondo me, deve spesso battersi perché sia il giornalista anche lì più autonomo possibile, ma comunque l'editore ha delle sue prerogative. Quando l'editore diventa, oltre che un'azienda, anche una commissione politica, come la commissione di vigilanza, che problema pone in più a lei tutti i giorni questa faccenda? Telefono, adesso non voglio sapere i telefoni politici, sì. Lei naturalmente deve dire di no. Nella mia esperienza, tantissimi anni fa, in una prima Repubblica e così via, ero portavoce di un partito, oimè, io devo dire che si dica, i politici rompevano molto le scatole ai direttori dei telegiornali e dei giornali radio, ma molto, cioè rompevano molto le scatole dalle prime edizioni della mattina. Per questo io, per esperienza, è inutile che dica di no, perché io mi sono trovato a fare il portavoce di un partito, io telefonavo poco, ma a volte telefonavo pure io, non posso dire, per dire, ah, hai fatto parlare Tizio, hai fatto parlare Caio, mi devi far parlare Tizio, mi devi far parlare Caio. Quindi quando si ha un editore di quel tipo, non è un po', che fa? Bisogna rispondere, non bisogna rispondere? Ma guardi, intanto sono i portavoci che chiamano molto più dei politici. D'altra parte è giusto che lo faccia, diciamo, il portavoce è pagato per quello, quindi giustamente cerca di vendere la propria merce, che in questo caso è il politico di riferimento, il politico per il quale presta la sua capacità professionale. Quindi sono soprattutto i portavoci che chiamano. Devo dire che non c'è rispetto alla Prima Repubblica, non c'è questo assedio ai direttori di telegiornali. Sarà perché in questo momento la politica non è proprio fortissima come lo è stato in epoche passate, sarà perché, diciamo, forse in qualche modo i direttori riescono anche un attimo ad essere più autonomi. Non c'è questo assedio ai direttori, almeno per quanto mi riguarda, al direttore del TG2. C'è sicuramente, come dire, da parte soprattutto dei personaggi minori, quelli che più difficilmente riescono a far notizia, di cui più difficilmente si inserisce una dichiarazione o un'opinione all'interno del telegiornale, c'è frequentemente la richiesta di poter apparire, diciamo, ma rientra nei limiti della buona educazione. Sì, insomma, è una questione abbastanza fisiologica e non patologica nella sua esperienza. Esattamente, senza alcuna forma di pressione particolarmente fastidiosa. No, ma la domanda ha un altro aspetto. Io sono un po' convinto che noi tendiamo nell'informazione italiana a sovrappesare sia in quella della carta stampata, io lì ne sono abbastanza convinto da sempre, ho anche avuto qualche riscontro in piccola provando a cambiare nel giornale in cui ho avuto qualche responsabilità e vedendo che forse qualche risultato veniva. Non so se questo valga anche nell'informazione televisiva, ho l'impressione anche lì un po' di sì. Che cosa dico? Penso che noi tendiamo un po' a sovrappesare la componente dell'informazione politica su tutto il resto, quando nella mia esperienza o nella mia sensazione è vero che ci sono alcuni milioni di italiani iper appassionati, iper tifosi fin troppo di politica, sono quelli molto militanti, molto informati, convinti prima ancora di una notizia di sapere già chi l'ha prodotta e a chi risponde nell'interesse. Classicamente la reazione per internet sui filmati della violenza a Berlusconi e così via, o mi aspettavo che si verificasse persino di fronte al Papa che qualcuno dicesse, però ecco, c'è una fascia di italiani di iper tribalizzati, se mi permette chi è in ascolto questo termine. Però ho l'impressione che poi sul vasto pubblico, e quello sul quale un organo di informazione come il TG2 deve per forza fare i suoi numeri, tutta sta cosa di politica sia un po', non voglio dire distante, ma non è in cima alle preoccupazioni degli italiani, che forse hanno altri problemi e vorrebbero trattare anche problemi concreti, quelli della loro vita di ogni giorno. Quando si ha un editore politico, appunto, un po' particolare, il direttore che fa? Mette per forza l'informazione politica in testa, come un po' sembra, vedrete i telegiornali. Io adesso non voglio chiamare lei in causa, però insomma un po' sembra che quello sia il cliché. Oppure a un certo punto inizia a dire, ma sapete che c'è, io provo a sperimentare gradualmente un distacco dalla politica, ne metto un po' meno, oppure è la redazione magari di chi sta in Rai rispetto a chi ci viene avendo esperienze fuori, che tende a dire al suo direttore, sì, guarda, però fidati di noi che ti spieghiamo che se poi tu rivoluzioni un po' troppo la cosa non va bene. Come funziona? Ma no, guardi, io mi sono regolato secondo, diciamo, canoni abbastanza semplici, ovvi, cioè quando c'è notizia si fa la politica, quando non c'è notizia non si fa la politica. Cioè, voglio dire, ieri ad esempio, ovviamente siamo in un periodo di festa, quindi il riferimento è valido solo parzialmente, su 32 minuti di telegiornale soltanto due erano dedicati alla politica, con la registrazione di questa smentita del Partito Democratico, la telefonata natalizia tra Bersani e Berlusconi, e a questo, diciamo, accenno prove di dialogo tra maggioranza e opposizione disturbate da il nodo di Pietro e da quelle posizioni a cui facciamo riferimento prima, il capogruppo del Partito Democratico Franceschini. Per adesso erano 32 minuti di cronaca con un grandissimo approfondimento ad esempio sulle valanghe, su cui avevamo delle storie nostre, la testimonianza di uno dei sopravvissuti del soccorso alpino che ha visto morire gli altri quattro compagni che erano andati lì per salvare i due turisti sprovveduti, come li ha definiti Bertolaso, oppure abbiamo fatto una grande iniziativa sui saldi perché anche alla luce di quanto ha scritto ieri il Sole 24 Ore in prima pagina siamo andati a constatare di persona che i saldi che ufficialmente dovrebbero cominciare il 2 gennaio sono praticamente cominciati ieri, perché già in molte grandi città i negozi praticavano appunto sconti sugli acquisti. Quindi diciamo, da questo punto di vista non ci sentiamo in obbligo di fare la politica a tutti i costi, anche quando non c'è nulla da dire, anche quando non offre nulla da dire. È ovvio però che, come dire, la politica, io poi sono un direttore che è molto sensibile alla politica, nel senso che appassionato di politica, non sono fazioso come adesso va molto di moda, diciamo, e anche da un certo punto di vista trovo una certa rispondenza nel lettorato, cioè in questo momento i giornali premiati sono quelli che hanno posizioni più estreme, a destra o a sinistra. Io invece cerco, come dire, di tenere la voce sempre su una tonalità media, perché credo che questo sia il modo corretto di fare informazione, però diciamo, quando la politica offre degli spunti interessanti io credo che sia giusto rappresentarla anche in maniera diffusa, e non mi preoccupo, diciamo, di dedicarvi parecchi minuti di telegiornale, anche se spesso si dice che la politica faccia scendere gli ascolti, cosa che secondo me è vera solo in parte, nel senso che se la fai in un certo modo, se la fai bene, se la fai completa, c'è tanta gente anche non tifosa che si appassiona alla politica e che la vuole capire, la vuole essere spiegata in maniera corretta e possibilmente al 360. Oh, io ne approfitto per fare una piccola chiosa personale che spiega perché ho scelto di iniziare con Mario Feo, direttore del TG2, perché con tutto il rispetto per gli amici, i colleghi che sono direttori del TG1 e TG3, nella mia vecchia Prima Repubblica, poi sembra che parlo da settantenne, però insomma, io facevo politica molto giovane, insomma, ma nella Prima Repubblica, in cui sono stato per anni portavoce di un partito, prima di maggioranza e poi, grazie al cielo, riuscimmo a rompere, andammo all'opposizione, c'era una vecchia formula, una specie di codice telefonico che dava l'idea di come si distribuivano i direttori e i vice direttori nelle testate della RAI. Era la famosa formula per cui c'erano 5 democristiani, 3 socialisti e così via, fino a poi a uno che riguardava i partiti laici. Nella Seconda Repubblica io ho l'impressione che ci sia un pochino il tentativo di dire ai direttori dei telegiornali che uno va da una parte, l'altro va da una parte, sto dicendo l'altra parte politica per intenderci, a seconda di chi ha vinto le elezioni, poi di solito si tenta di prendere uno in mezzo equilibrato, e nell'attuale composizione mi sembra che sia esattamente Orfeo. Per questo abbiamo cominciato con lui, che ha una carriera giornalistica, appunto Repubblica, il gruppo Caltagirone, poi come dice lui gli viene anche riconosciuto il fatto di essere, vogliamo dire, meno identificabile nel taglio che dà ai commenti e al tipo di informazione quotidiana politica. Ecco, io credo molto in questa maniera di fare informazione. Non è detto però, caro Mario, che noi siamo davvero in maggioranza, perché come dici tu il pubblico sembra premiare un pochino, diciamo, le ali calde delle curve. Ecco, sentiamo un po' i primi ascoltatori che ci dicono e che ti chiedono. Mauro da Pisa, innanzitutto. Prego Mauro, ci dica. Allora, buongiorno, complimenti a lei per come conduce la trasmissione, sì, mi piace moltissimo quando è graffiante. Un'altra cosa, mi aspetto che lei sia garante di quello che io chiedo e delle risposte chiaramente si figura, daranno. Prego, dica. Allora, tre punti velocemente. Uno, perché i mezzi di informazione, la maggior parte dei mezzi di informazione, escludendo internet, quindi quelli più convenzionali, sono appiattiti sui temi che tirano fuori dal governo, come se non potessero essere mai cittadini o i giornali a mettere dei temi sotto la lente d'osservazione del governo. Non so se mi sono spiegato. Chiarissimo, il primo punto è questo, poi secondo e terzo. Ecco, il merito delle notizie e la loro comparazione con l'estero, nel senso che viene data una notizia, non si entra mai nel merito, ma si cerca sempre il dibattito o si cerca di approfondire quello che è stato detto da parte di tutto l'arco politico, destra e sinistra, che io considero insieme, vabbè, questa è una cosa personale. Ultimo. La terza, sì, la seconda domanda è il merito delle risposte intese come qualità, cioè uno fa una domanda, gli viene data una risposta e poi nessuno che obietti su questo merito delle risposte. Cioè si fa una finanziaria, si trovano 8.000 miliardi, quello che è, per coprire i costi, però poi non si chiede mai di giustificare da dove sono arrivati questi soldi. Si dice evasione fiscale generica, però non si dice mai come praticamente verrà realizzata la cosa. Grazie Mauro da Pisa. È sostanzialmente il primo e il secondo punto, sono primo il governo, secondo la comparazione, sono i punti più delicati. Sentiamo ancora Daniele da Treviso. Prego Daniele. Buongiorno, approfitto già adesso per fare gli auguri. Ok, allora io ritengo che in questo momento c'è un minimo storico che accomuna i politici e i giornalisti, credo sia riferito alla credibilità, che è veramente molto bassa. Questo perché? Perché molto spesso sono faziosi, sì, troppo spesso, e secondo me poi a livello anche di informazione politica televisiva c'è un'overdose proprio di litigiosità, di polemica. Io personalmente non guardo più la TV e evito proprio totalmente di guardare anche i giornali. Se li leggo magari in ambito, non so, di un bar, prediligo quelli locali che molto spesso danno delle informazioni più tranquille, e poi sono io che devo stabilire una mia opinione su quello che leggo. C'è secondo me una presunzione da parte dei giornalisti di educare le persone, ignorando che molto spesso le persone hanno già un cervello che è capace di ragionare. Io la ringrazio, molto di questo, perché io ce l'ho ben presente. A volte quando leggo dei grandi predicozzi domenicali, di grandi fondatori del giornale italiano, che hanno fatto la storia del giornalismo italiano, perché Repubblica ha cambiato lo stile, il metodo di fare giornalismo, però leggo queste lunghe prediche di Eugenio Scalfari, mi interrogo, perché se poi non si debba avere successo più, come fa Eugenio Scalfari, che mi sembra un po', come dice lei, ha l'idea che bisogna mettere nella testa, bisogna fare l'educatore civile, Giuseppe Mazzini. Oppure quando leggo, e sono molti anni che leggo tutte le domeniche, i fondi di Barbara Spinelli, altra persona che io conosco, rispetto tantissimo, ma con questo tono da profeta inascoltato nel deserto rispetto all'Italia, no? Aridamente ridotta a terreno di corsa di queste bande di predoni rispetto alle quali, mio Dio, ecco, ci vogliono i profeti per salvarci. Quindi chi lo sa se avrà davvero ragione lei oppure no. Allora iniziamo a far rispondere agli ascoltatori dopo la pausa di pubblicità. 9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci tornati in studio, abbiamo Mario Orfeo, il direttore del TG2, ospite nostro questa mattina, e iniziamo a girargli la palla di queste prime telefonate degli ascoltatori. Ma io sono molto preoccupato, non è una sorpresa per me, ma dalla telefonata soprattutto del secondo radioascoltatore, perché pone un problema che per me è molto stringente, molto chiaro, molto presente, cioè quello della credibilità dei giornalisti. Ora, della credibilità dei politici se ne occuperanno i politici. Noi cercheremo di fare dei sentinelle, ovviamente, come fa parte del nostro lavoro, però quello della credibilità dei giornali, dei giornalisti della nostra professione, è un problema che mi è ben presente, perché questa faziosità che si è sviluppata negli ultimi tempi, ovviamente non è sempre stato così, però ci sono stati sempre giornali partito, appunto io ho lavorato a Repubblica tanti anni, quindi conosco bene la genesi di quella, diciamo, di quel giornale, di quella stagione, ci sono stati giornali orientati in maniera diversa, eccetera, ma mai c'è stato, diciamo, questa corsa, folle corsa ideologica per cui, diciamo, la notizia viene sopraffatta dall'opinione, cioè la notizia viene piegata, il fatto viene piegato a quello che è il proprio, diciamo, credo ideologico, alla propria parte politica, alla propria idea, diciamo, di società, di paese che vorremmo imporre, diciamo, al di là di quello che sono i fatti oggettivi che succedono. E questo sta ovviamente danneggiando, secondo me, tutta la categoria professionale, anche se, diciamo, da un altro punto di vista consente a chi, mi permetto, come me, come credo Oscar Giannino, che conduce questa ottima trasmissione, mi associo ai complimenti e agli auguri, di inserirsi in uno spazio dove invece i telespettatori, i radioascoltatori, i lettori possono trovare le notizie accompagnate dalle opinioni, però con equilibrio, con moderazione, con diciamo tutte le voci che è giusto sentire per capire realmente quel fatto o quella notizia. Ora, ancora qualche ascoltatore e poi torno io a fare qualche domanda. Abbiamo innanzitutto Caterina da Catania. Prego Caterina, la invito un po' alla sintesi. Prego. Sì, buongiorno, spero di essere sintetica. Discorsi diversi per telegiornale, per il giornale su carta stampata. Io preferisco su carta stampata perché c'è più spazio e spero nella qualità delle notizie che danno, che si possono leggere anche con più calma. Per il telegiornale invece che vediamo tutti. Ma lei ne legge, ne compra o ne legge più di uno al giorno? Io ne leggo online di solito. Ah, benissimo. E quindi vado a spulciare quello che mi serve. Però anche ho un'età abbastanza avanzata, sono sui 70, quindi ho delle tradizioni che ogni tanto cerco di coltivare, insomma, ecco, quindi mi piace anche la carta croccante, è così. Lo stesso vale per il libro, ovviamente. Sul telegiornale, siccome è già ristretto, preferirei meno politica ripetitiva, perché tanto cambia ogni, non cambia tutti i giorni, quindi è più meno cronaca, ossessionante. Vorrei più notizie anche più varie, di tipo economico, internazionale, un po' di politica estera, che è sempre troppo poca e troppo parziale. Ok, grazie Caterina. Più politica estera. Sulla cronaca, attenzione Caterina, perché la cronaca sulla carta stampata, e guardi che più cronaca fa vendere di più, cioè nella carta stampata è troppa politica e troppi temi generali. Non parliamo poi dell'economia, i grandi direttori quando gli proponi di parlare di economia ti guardano sempre e dicono ma che vuoi farmi non vendere neanche una copia, mentre sulla cronaca di solito tira. In televisione, attenzione, chiederemo poi a Orfeo, perché i direttori che nella testa di TG negli anni recenti hanno dato molta attenzione alla cronaca, calcando un po' la mano, e a volte dipende da come fai un titolo, dal tono di chi legge il servizio, perché la televisione poi sono queste cose qua, e sono stati spesso accusati di graduare l'attenzione alla cronaca per portare acqua ancora una volta al mulino di questo a quella parte politica. Abbiamo tutti letto poi come in alcuni mesi precedenti, tornata elettorale, sembrava che il focus dei reati compiuti nei grandi centri urbani italiani fosse esploso, e poi a distanza di mesi sembrava che invece poi i reati davvero guardati freddamente nelle graduatorie non corrispondessero affatto a quello. Quindi la cronaca è un punto molto delicato per fare un telegiornale. Poi Carlo da Cuneo, prego Carlo. Sì, buongiorno Oscar, buongiorno a tutti. Io posso sottolineare un paio di punti molto brevemente. Il primo relativo al fatto che condivido un'osservazione espressa all'inizio della trasmissione, vale a dire che forse lo spazio riservato alla politica è troppo, e non solo è troppo, spesso i giornalisti si limitano a fare, se vogliamo, i portavoce dei vari politici, cui concedono di dire le loro cose senza, tutto sommato, senza neanche fornire alcun commento. Ecco, quindi forse una piccola parte di commento separata dalle dichiarazioni dei politici. Carlo, posso dirti però che così è un po' facile? Ma da che cosa lo desumi che questi giornalisti e questi direttori fanno i microfoni, i portamicrofoni dei portavoci dei partiti? Io lo capisco e spesso lo pensiate, però in che cosa? Non è un giudizio, è proprio la mia è una constatazione su alcuni temi, no? Poniamo un emendamento particolare alla finanziaria. Spesso ci si limita veramente a riportare un'intervista con tanto di microfono politico dicendo, che ne so, il consiglio ha detto questo, quell'altro ha detto quell'altro. Ah no, capito, tu stai parlando del pastone di giornata in cui si mettono insieme i vari... Questo allora è diverso. Un conto è che tu così dai conto delle opinioni dei diversi partiti, altro conto è che mi sembra di aver capito che ispiri la parte politica del tuo telegiornale a fare il portavoce dei portavoce, quello no. Grazie Carlo. Antonio da Novara, e poi torniamo con Mario Orfeo che inizia a rispondere un po' a tutti. Prego Antonio. Ah, buongiorno e tanti auguri a tutti. Dica. Io volevo mettere in discussione prima una cosa, che io pago il canone della RAI e sono molto amareggiato delle situazioni che dicono i telegiornali su queste, sempre delle stesse cose. Non si parla mai della crisi che c'è, le aziende che chiudono, più che altro fare anche i servizi sulle aziende che chiudono in crisi, delle banche che non danno i soldi alle piccole aziende. Questo bisogna fare i servizi. Una televisione pubblica dovrebbe andare, siccome c'è il fatto che il governo blocca questa situazione qua, di non parlarne perché è meglio che le cose non se ne parlano, meno si sa e meglio è. Allora io per sapere qualcosa devo andare sulla 7, che non pago il canone, e su Sky che pago però mi dà tutte le notizie. Questo è il problema più serio. Ho capito, Antonio. Allora, Mario, c'hai un po' di temi vari e diversi da come ti orienti sulla cronaca e con l'informazione sulla crisi. Comincio dalla fine, nel senso che per quanto riguarda rispondo ovviamente, posso rispondere soltanto per il TG2, assolutamente non è nel nostro stile, non è nello stile mio, quello di meno se ne parla meglio è, per favorire magari il governo piuttosto che l'opposizione. Della crisi abbiamo parlato, l'abbiamo parlato nel corso dei telegiornali, abbiamo raccontato tante situazioni purtroppo di crisi di grandi e piccole aziende, non ultima nei giorni di Natale siamo stati gli unici ad avere un inviato presente a Pomigliano dove, come sappiamo, gli operai dell'indotto Fiat hanno trascorso le festività nel palazzo del comune perché appunto hanno ricevuto la vigilia delle feste, hanno ricevuto la lettera di cassa integrazione. Peraltro siamo l'unico telegiornale che ha una ricchezza di rubriche per tradizione, non per merito mio, ma per un'antica tradizione del TG2, non solo soldi, TG2 dossier, dove ci siamo occupati ripetutamente anche di questi temi, che ovviamente hanno bisogno di approfondimenti, quindi non sempre trovano spazio nei servizi da un minuto e trenta tipici dei telegiornali, ma abbiamo le rubriche appunto dove invece è possibile fare una riflessione, un approfondimento, e di questo ci siamo occupati, quindi non abbiamo nascosto la crisi a nessuno, ma anzi abbiamo dato tutte le notizie dicendo anche che, come dire, fare degli allarmismi, perché questo va detto, questo diciamo, credo sia per me un punto d'onore, fare degli ingiustificati allarmismi sulla crisi avrebbe soltanto danneggiato l'andamento della crisi, non avrebbe aiutato ovviamente l'Italia come altri paesi a risollevarsi, questo però non voleva dire censurare alcun tipo di notizia, e credo che questo l'abbiamo fatto diciamo con grande onestà e con grande serietà. Per quanto riguarda invece la cronaca, il trattamento delle notizie di cronaca, nessun imbarazzo a dare tutte le notizie di cronaca. Il servizio pubblico però impone alcune volte dei dubbi in più prima di mandare in onda un servizio, prima di dare risalto, un certo risalto a una notizia più o meno, impone una riflessione diversa e maggiore rispetto alla carta stampata, e lo posso dire perché avendo fatto 25 anni di carta stampata, come dire, adesso l'ho constato personalmente. Faccio un esempio per tutti, l'influenza A. Ci sono stati un mese e mezzo fa, notizie praticamente quotidiane di morti di bambini, di adulti, di persone anziane già malate, già affette da altre gravi patologie per l'influenza. Naturalmente sui giornali trovavo uno spazio molto ampio. Sul telegiornale ho fatto una scelta insieme ai miei collaboratori, che peraltro hanno anche un'esperienza, molto di loro, un'esperienza maggiore di me in televisione e di servizio pubblico, quella di non enfatizzare oltremodo queste morti, perché la maggior parte di queste veniva catalogata sotto influenza A, perché diciamo l'ultimo anello era quello dell'influenza A, ma naturalmente si inseriva su patologie molto gravi di persone che purtroppo probabilmente sarebbero morte ugualmente, perché bastava un'influenza normale, bastava una polmonite, cioè malattie tipiche dell'inverno per portarli alla morte, visto che aveva un quadro patologico, clinico patologico già molto grave. Ecco, aver evitato sul telegiornale ogni giorno di questo bollettino di morti per l'influenza, secondo me è stato da servizio pubblico, perché avremmo soltanto, come dire, procurato un allarme ingiustificato, visto anche poi come per fortuna l'evoluzione della malattia e della pandemia c'è stata in Italia. Ecco, questo diciamo sono problemi che come giornalista di carta stampata non mi sarei posto, mi pongo e scelgo di comportarmi in maniera diversa come direttore di un telegiornale del servizio pubblico. Certo, ti faccio io una domanda, tornando ancora sulla crisi, che insomma Radio 24 noi seguiamo in maniera, non dico prioritaria, ma grande attenzione. Oggi per esempio sui saldi torniamo col Salvadanaio, con la Rosciana alle 12, per chi fosse interessato. Ieri Luca Ricolfi sulla Stampa, Mario, ha fatto un editoriale che a me non ha stupito, perché sono molto convinto di quello che ha scritto il professor Ricolfi, però effettivamente Ricolfi richiamava tre punti di chi siano le vittime in numero maggiore degli effetti della crisi economica, la seconda più grave del secondo dopoguerra, chiamando l'informazione un po' alla sbarra, dicendo non sono molto sicuro, diceva ieri sulla Stampa il professor Luca Ricolfi, che davvero l'informazione abbia a fuoco tre questioni fondamentali, cioè le tre classi, per così dire, se usiamo il vecchio frasario marxista, in cui si addensa il numero maggiore di vittime della crisi sono innanzitutto più nel nord che nel sud, per via che nel nord si concentra il più della manifattura che esporta e che quindi è più colpita dalla crisi. Quindi più al nord che al sud, quando dice qui c'è molta lamentela del sud invece che contiene sui giornali. Secondo, sono più quelli, i lavoratori autonomi, le partite IVA eccetera eccetera, che i lavoratori dipendenti, che pure sono molto colpiti nelle fabbriche, ma che hanno avuto l'estensione degli ammortizzatori sociali, quindi in qualche maniera si è fatto fronte, certo si potrebbe fare di più, ma si fa fronte con gli ammortizzatori sociali e i loro problemi, mentre gli altri invece sono quelli che hanno perso il lavoro e non c'hanno più niente da fare. Terza cosa, sono più colpiti, anche se questo bisogna stare attenti a dirlo per non suscitare delle reazioni sbagliate, però sono più colpiti gli italiani rispetto agli stranieri, anzi i lavoratori immigrati hanno guadagnato 400.000 posti di lavoro in più nel corso dell'ultimo anno. Allora, su queste tre osservazioni di Ricolfi, innanzitutto ti ritrovi come tipo di fotografia degli effetti della crisi? Secondo, ha ragione o ha torto nel dire che l'informazione è stata un po' poco chiara nel mettere a fuoco questi tre sottogruppi di vittime? Ma guarda, adesso sono sicuramente d'accordo sulle prime due, sulla terza non ho gli elementi per dirlo, diciamo non ho i dati per dirlo, però ovviamente mi fido di quello che dice il professor Ricolfi, che è un'autorità nel suo campo e quindi non credo che diciamo sia frutto della sua fantasia. Sulla sottoinformazione credo che soprattutto per quanto riguardi il mondo dei lavoratori autonomi, delle partite IVA, ci sia stata una una sottovalutazione, perché come dicevo prima siamo stati molto colpiti un po' tutti i telegiornali, un po' tutti i giornali da le proteste nelle fabbriche, da anche gesti clamorosi, no? C'è la moda di salire sulle gru o sui tetti, quindi siamo andati a raccontare soprattutto questo disagio, questa difficoltà di chi perdeva il posto di lavoro nelle fabbriche da un giorno all'altro, di aziende che chiudevano lasciando a casa una serie di persone con famiglie, con bambini piccoli all'inizio del lavoro, quindi diciamo, in situazioni economiche particolarmente difficili e controllabili, rispetto al lavoratore autonomo, a quello della partita IVA, che non ha trovato diciamo chi gli dava voce, pur avendo appunto situazioni sicuramente critiche, altrettanto critiche, quantomeno altrettanto critiche, se non di più. Benissimo, ora l'informazione, un minuto di informazioni sulla circolazione stradale, poi riprendiamo con Mario Orfeo le vostre telefonate. 9 in punto, la versione di Oscar. Ed eccoci tornati in studio, siamo con il direttore del TG2 Mario Orfeo. Ricominciamo con due vostre telefonate per la nostra parte finale della trasmissione di oggi. Stefano da Brescia, innanzitutto. Prego Stefano. Lei deve abbassare la radio però, perché sennò... Sì, buongiorno a tutti. Dica. Allora, la mia è una domanda breve. Io voglio dire questo. Secondo me i giornalisti dovrebbero limitarsi a raccontare i fatti più precisamente possibile, perché dal momento che danno la loro opinione fanno politica. Basta, grazie. Oimè, lei però invita Orfeo a dare un'opinione su uno dei punti più terribili da sempre, cosa significa l'informazione. Io per esempio preferisco sempre, quasi sempre, dichiarare il mio punto di vista, che non significa influenzare, significa ammettere che questa cosa che il giornalista è una specie di lente fotografica asettica. Io non ci credo, ma non ci credo perché in base ai principi per cui avviene l'interazione tra i fatti della pretesa realtà e ciascun osservatore, per come sono convinto di filosofia, scienza, neurobiologia del mio cervello e così via, io non credo che nessuno sia una lente fotografica, però questo è il mio punto di vista. Sentiamo ancora Ludovico da Como, poi le risposte di Orfeo. Prego Ludovico. Sì, buongiorno. Volevo semplicemente dire che a livello di informazione bisogna anche avere lo sforzo di andarsi a cercare anche l'informazione, anche perché ci sono tantissimi giornalisti non appiattiti. È vero che in questo periodo va di moda essere di parte, però ci sono direttori come può essere il direttore Orfeo, ci sono direttori di giornale come Polito, ci sono editorialisti come Panza, come lei Giannina, vi dicendo che si sa esattamente qual è il loro pensiero politico, però hanno acquisito una capacità critica di poter dire esattamente come la pensano, e questo dovrebbe imparare anche molte persone che leggono giornali e guardano la televisione. Grazie, questa in realtà non era una domanda, era una specie di complimento. Ancora Patrizia da Roma, prego Patrizia. Buongiorno. buongiorno. Io volevo fare alcune riflessioni dopo essere stata per anni una forte lettrice di giornali, di quotidiani. Adesso devo dire che la vicenda mi appassiona molto di meno, potrebbe essere un frutto della mia età, ho 65 anni passati, però mi sembra che il gossip stia dilagando in qualsiasi giornale in un modo fuori misura. Francamente ogni tanto fra Repubblica e Corriere della Sera mi sembrano peggiori di quei giornali che si trovano dai parrucchieri, tipo ma non mi ricordo fatti lì, una cosa del genere. E la seconda cosa che mi sembra... E in molto... televisione che impressione è? La televisione lasciamo perdere. Meglio un velo pietoso, perché tra il cattivo gusto, le parolacce e gli urli non si riesce a sentire un servizio decente o a tentare di fare un'idea decente, insomma, chi più urla la vince. E vabbè. Ho capito, Patrizia. Grazie di questo tirata a due orecchi. Mario, un po' di risposte sintetiche, sì, perché sì, poi ho 3-4 domandine brucianti per la tua. Sì, sì. Allora, signora Patrizia, le do ragione, però se come dire, può farmi una cortesia, distingua i telegiornali e dalle trasmissioni di approfondimento della RAI, che non sono curate molte volte dal telegiornale, dalla redazione del TG2, del TG1, del TG3, ma sono diciamo affidate ad altre persone nelle quali poi appunto si urla, si dicono parolacce, eccetera. Mi associo assolutamente, pur essendo nella stessa azienda, alla sua critica, che anch'io trovo alcune trasmissioni onestamente non da servizio pubblico, non da televisione in genere, ma nulla hanno a che fare, le assicuro, con il telegiornale e con le redazioni giornalistiche dei telegiornali. Per quanto riguarda il signor Ludovico, lo sottoscrivo, sono telefonate che ogni tanto fanno piacere, come dire, perché è proprio quello che noi cerchiamo appunto di trasmettere, cioè cerchiamo di trasmettere il messaggio che ci sono anche dei giornali, delle televisioni, dei telegiornali dove si può trovare un'informazione di un certo tipo, non urlata, non strillata, non faziosa, dove naturalmente, e qui vengo anche alla risposta a Stefano da Brescia, dove naturalmente non è che le opinioni sono vietate, dove cerchiamo di raccontare i fatti per quello che sono, naturalmente accompagnandole con opinioni nostre o opinioni di colleghi giornalisti, economisti, anche Oscar Genino, spesso ospite del TG2, opinioni che noi dichiariamo, sono opinioni ovviamente di parte, ma che ci sembrano come dire, giuste, che condividiamo e che quindi riteniamo opportuno trasmettere al nostro telespettatore. Allora, domanda, la scorsa settimana tu hai fatto quello che si chiama uno scoop in gergo tecnico, cioè dopo il duomo che si era ricevuto in faccia e che gli aveva aperto la faccia e fatto, ohimè, colare sangue, e Berlusconi ha scelto TG2 per la sua prima uscita telefonica, ma insomma ha scelto TG2 e questo naturalmente rispetto ai tuoi direttori colleghi, colpaccio per il TG2. Come funziona in quel caso? Sono i direttori che a quel punto alzano il telefono e dicono al portavoce del Presidente del Consiglio per favore a noi, o in quel caso, vista la natura particolare, per così dire, del comunicante politico Silvio Berlusconi, al quale non è facile certo estorcere alcunché, è lui che ha scelto. In questo secondo caso perché, secondo te? No, devo farti una piccola precisazione. Lo scoop è stato intervistato al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Non a Berlusconi. Peggio ancora, infatti, sì, peggio ancora, perché questo rivela una mia colpevole disattenzione nel dirlo. Sì. E secondo, no, va bene, ma non è grave. Non è grave, è gravissimo. Hai fatto bene a tenermi le orecchie. No, e devo dire che è stato un fatto per me molto importante, molto bello, perché diciamo non era mai successo che il Presidente della Repubblica, qualsiasi Presidente della Repubblica, scegliesse il TG2 e non scegliesse l'edizione delle 20 del TG1, che come è noto è l'edizione più seguita di tutti i telegiornali italiani ed è quella diciamo per tradizione diciamo il programma d'eccellenza. Invece il Presidente della Repubblica ha scelto di affidare un suo messaggio, peraltro molto forte, all'indomani dell'aggressione al Presidente del Consiglio in Piazza Duomo, ha scelto di farlo con il TG2 e questo per me è stato un grande motivo di onore per me e per tutta la redazione. Da tempo, io diciamo da quando mi sono insediato al TG2, chiedevo al Presidente della Repubblica di poter fare con lui un'intervista, una conversazione diciamo da trasmettere, e Presidente della Repubblica, sentendo la necessità di comunicare le cose che ha comunicato in quell'occasione, molto importante, poi sono state le aperture di tutti i giornali il giorno dopo, ha deciso che era venuto il momento, quindi mi ha chiamato, io sono andato al Quirinale e l'ho intervistato appunto su questo clima di odio, questa violenta aggressione a Berlusconi e quali sono le possibili vie di uscita a questo clima di contrapposizione così forte nel paese e tra le forze politiche che è sfociato poi in questo gesto, speriamo isolato, violento da parte di una persona psicolabile, ma comunque da inquadrare in un contesto diciamo di contrapposizione ideologica e politica molto forte che diciamo ha fatto alcuni addirittura pensare a un clima da anni 70 e Dio ce ne scansi liberi, perché appunto ci ricordiamo che cosa è successo negli anni 70. E poi nei giorni immediatamente successivi si è aggiunto anche il vertice della CEI, per così dire, no? Sì, due giorni dopo poi abbiamo anche intervistato il Cardinale Bagnasco, Presidente della Commissione Episcopale Italiana, cioè il Presidente Capo dei Vescovi Italiani, appunto su questa stessa scia. Ecco, diciamo che un po' il TG2 in questa fase si è proposto come il telegiornale che ha cercato di riannodare un po' i fili della politica italiana, invitando tutti a un rispetto delle istituzioni, perché il rispetto fra istituzioni secondo me è fondamentale. Sappiamo che ci sono stati invece in passato contrasti tra il Quirinale e il Capo del Governo, tra il Capo del Governo e il Presidente della Camera. Invece credo che diciamo le istituzioni debbano dare l'esempio innanzitutto ai partiti, poi i partiti anche ai cittadini, perché appunto questo clima si svelenisca e si possa cominciare a lavorare poi sulle riforme, su quello che il paese ha bisogno, anche per uscire da una crisi dalla quale, nonostante alcuni dati positivi, alcuni segnali positivi, non siamo usciti, quindi tutto poi si riconduce a come tutto si tiene nella vita e nella politica. Credo che ci sia bisogno in questo paese di mettersi al lavoro per fare delle riforme serie, perché non siamo ancora usciti dalla crisi e le categorie a cui facevi riferimento tu citando Ricolfi sono categorie che vivono ancora, come si preparano a vivere un 2010 probabilmente ancora di grande sofferenza. Diciamo che ci sono campo un po' spaccato tra il pubblico, tra chi crede che il Duomo in faccia a Berlusconi segni sia una manifestazione dell'intolleranza progressiva, che è diventata la vera caratteristica della politica italiana, è una specie di segno da cui è difficile immaginare ci siano delle resipiscenze da parte dell'opposizione, di alcune componenti dell'opposizione, magari chi è l'opposizione pensa che quello stesso valga per la maggioranza, si capisce dai messaggi che arrivano, dalle lettere che arrivano ai giornali. C'è chi invece dice no, qui bisogna soffiare sul fuoco e tentare di avviare una comprensione eccetera eccetera. L'informazione deve registrare, ovviamente non è che può pensare di, però può anche esercitare un ruolo. In questo caso qual è il confine sottile tra esercitare un ruolo nel dare più o meno evidenza ad atti di violenza come quelle, nelle reazioni che ci sono state, oppure a mettersi la mano sulla coscienza e dire se io calco troppo su questo rendo più difficile poi l'arte del ricucire e dell'equilibrio da cui l'appello al capo dello Stato e così via? Come si fa a distinguere dalla sera per sera? Ma secondo me le due cose sono assolutamente compatibili. Le notizie bisogna darle tutte, non possiamo nascondere nulla, quindi tutto quello che succede bisogna darlo, e bisogna darlo con l'enfasi giusta. Non possiamo pensare che l'aggressione a Berlusconi forse sia una notizia da nascondere in qualche modo, sarebbe diciamo folle, sarebbe assurdo. Quindi diciamo va data con ampio risalto, va data diciamo con il risalto che merita per la sua gravità, per la sua assurdità. Nello stesso tempo però, dato che i telegiornali durano 30 minuti, i giornali durano 50 pagine, 60 pagine, come dire, c'è modo, tempo e spazio per accompagnare un trattamento diciamo adeguato della notizia, quindi senza nascondere nulla, notizia dell'aggressione a Berlusconi o di altri tipi di notizie, con un'informazione che spinga e faccia capire ai cittadini, ma faccia capire anche alla politica, perché noi abbiamo, come dire, secondo me abbiamo anche un ruolo, quello di far capire anche alla politica che i cittadini, cioè i nostri telespettatori, i nostri radioascoltatori, i nostri lettori vogliono una cosa rispetto ad un'altra. Questo mi piace molto, se posso dire. Cioè a me piace molto l'idea di un direttore di telegiornale pubblico che in commissione parlamentare di vigilanza non ci va, quando è chiamato e ovviamente lo chiamano, ci va solo a rispondere di quello che fa con questi, ma gli dice a un certo punto: guardate signori miei, che io sono in osservatorio, per cui il mio mestiere lo faccio io, come dico io, secondo rispondo alle vostre domande, terzo vi servo anche a capire che altrimenti vi andate a prendere lucciole per lanterna, perché la gente, ho un polso un po' diverso da voi che ce l'avete una volta ogni tanto, e questa mi sembra una grande cosa che contrassegna una maniera di fare giornalismo pubblico. Ma posso dirti, sapessi quante volte i politici chiedono tutti i giorni di aprire intenzioni, dico guarda, lo dico nel tuo interesse, oggi salta, perché sennò la gente non ne può più di vederti tutti i giorni, di vedere sempre la tua faccia, sempre la stessa in tutti i telegiornali, TG1, TG2, TG3, TG5, la 7, Sky, eccetera. Sapessi quanti consigli do, qualcuno ascolta, qualcuno un po' meno. Ma. Benissimo, e allora con questo consiglio impegno al direttore del TG2 Mario Orfeo, che ringrazio per aver esordito in questa serie di interviste, che si è conclusa con una mia gravissima mancanza, perché confondere Berlusconi con il capo dello Stato, qui mi prenderò calcio nel sedere da tutti. Chiedo ancora scusa a Mario Orfeo, grazie per lo spirito anche un grazie po' garibaldino con cui hai fatto questa trasmissione, ma hai capito che qua insomma c'è chi nota la differenza tra come si fa l'informazione. Grazie e buon lavoro a Mario Orfeo, grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato oggi, grazie in regia a Paolo Corleone e a Guido Scotti in redazione. L'appuntamento è per domani, la mia idea sarebbe quella di farvi una domanda se preferite o meno la chiusura di Ryanair che si profila, vediamo se questo sarà il tema confermato, ma in quel caso ne voglio sentire di cotte e di crude. Io sono per le low cost, ma c'è un problema di regole da rispettare. Vedremo domani la linea giornale radio. Radio 24. La passione si sente.